Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1800. Bomba contro Bonaparte, lui sopravvive, 22 i morti, un centinaio i feriti. Stretta sulle tasse e soldi dalla lotteria, la Francia cerca di evitare la bancarotta. Stati Uniti al voto, testa a testa tra il democratico repubblicano Jefferson e il federalista Burr. Via libera dal re e dai due parlamenti, l'Inghilterra annette l'Irlanda. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione dunque l'attentato contro Napoleone Bonaparte. Il primo console di Francia era già sfuggito in ottobre ad un tentativo di assassinio in un teatro, tentativo al quale aveva partecipato tra gli altri lo scultore italiano Giuseppe Seracchi e divenuto noto con il nome Congiura dei Pugnali. Ma questa volta l'opposizione è arrivata molto vicina al dittatore. Lo hanno chiamato attentato della Rue Saint-Nicaise o attentato della macchina infernale e almeno questo, come la dinamica o il numero di morti e feriti, è chiaro, come pure è chiaro che Napoleone è riuscito di nuovo a scampare alla morte. Restano invece molte ombre sui veri mandanti. Ma vediamo i fatti. La sera della vigilia di Natale, mentre si reca all'opera, la carrozza del primo console Bonaparte viene bloccata nella Rue Saint-Nicaise da un carretto che porta una grossa botte. Mentre il carretto muove lentamente, il cocchiere di Napoleone, Germani, detto César, veterano della campagna d'Egitto, intravede un passaggio e supera, svoltando in Rue de la Loi. Un attimo dopo, la botte sul carretto, imbottita di polvere e chiodi, esplode uccidendo 22 persone e ferendone un centinaio, ma senza colpire Bonaparte o la carrozza della sua consorte Giuseppina, che è invece attardata. Chi c'è dietro questo atto di terrorismo? Secondo alcune voci, il ministro di polizia Fouché ha ragione di credere che gli attentatori siano realisti. Ma Napoleone ha puntato il dito contro i giacobini che vengono in queste ore duramente repressi. Di fatto l'attentato sta permettendo al primo console di chiudere i conti con l'opposizione di sinistra. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è forte la tensione sociale nel paese anche per le misure draconiane imposte dal primo console per evitare la bancarotta al paese. Bonaparte si è mosso raccogliendo 5 milioni di franchi dalle banche e altri 9 milioni da una lotteria, ma ha anche tagliato il budget dei ministeri e introdotto una stretta fiscale. Sul fronte militare gli austriaci sono stati sconfitti dai francesi a Hohenlinden. Nonostante la superiorità numerica e di armamenti, l'esercito di Parigi ha fatto 11.000 prigionieri ed è avanzato fino ad arrivare a ridosso di Vienna. L'impero sta trattando la resa. Massima incertezza politica negli Stati Uniti, dove sia il democratico repubblicano Thomas Jefferson che il federalista Aaron Burr hanno ottenuto 73 voti dei grandi elettori nel voto per le presidenziali. Il tutto al termine di una campagna elettorale violentissima. I quotidiani federalisti sono arrivati a scrivere che l'elezione di Jefferson avrebbe portato all'insegnamento dell'omicidio, del furto, dello stupro e dell'incesto. Nel frattempo la capitale americana è stata spostata da New York a Washington e il 17 novembre si è riunito là per la prima volta il congresso che sarà chiamato a decidere proprio su chi sarà il prossimo presidente. Dopo le ribellioni irlandesi, l'Inghilterra ha di fatto annesso l'isola, abolendo il Parlamento di Dublino. L'Act of Union, così si chiama la legge, ha ricevuto il via libera del re il 1 agosto, dopo essere già stato approvato dallo stesso Parlamento irlandese e da quello inglese. Dal 1 gennaio del 1801 non vi saranno più Regno d'Irlanda e Regno d'Inghilterra, ma una nuova entità che si chiamerà United Kingdom, ossia Regno Unito. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia che la condotta e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio, potete anche scaricarne come sempre una versione da leggere volendo stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.